Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Mauro Moretti, riminese, 62 anni, ingegnere, sposato con una figlia, dopo una lunga carriera in ferrovie dal luglio 2001 è amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italia e dal 2006 al 2014 di Ferrovie dello Stato. Durante il suo mandato risana le ferrovie e realizza il progetto dell'alta velocità e con lui, tra le altre cose, sulla tratta Roma-Milano il treno batte l'aereo. Nel 2014 viene nominato amministratore delegato di Finmeccanica, un colosso industriale con oltre 50.000 dipendenti che lui ha trasformato nella nuova Leonardo. Intanto di lui dicono che abbia un cattivo carattere, che sia francescano, staccanovista, accentratore. Per molti sono i suoi difetti, per lui tutte qualità. Boh, vediamo. Ingegner Moretti, è vero? Tutte qualità? Non lo so. Quelli che lavorano con me lo devono dire. Non sono accentratore, questo non è vero. No. Il resto forse qualche cosa c'è. Senta, ma qual è quella di queste caratteristiche a cui tiene di più? Francescano o staccanovista, allora? Più francescano, perché è quello che si adatta a me. Ho sempre predicato avere bagagli leggeri, nel senso di interessi personali, e lavorare molto per gli altri. Senta, un difetto se lo riconosce? E tanti. Ne dica uno. A volte sono impulsivo. Senta, intanto, ingegner Moretti, con lei Finmeccanica è diventata Leonardo. Perché Leonardo? Leonardo perché dovevamo cambiare il nome di Finmeccanica, non reggeva più il mercato internazionale per i precedenti scandali. Cioè era screditato, diciamo. Era screditato. Dovevamo trovare un nome semplice che si ricordasse immediatamente e che naturalmente evocasse grandezze italiane. Leonardo fu di fatto il primo ingegnere aerospaziale della difesa al mondo. E quindi va bene. E guadagnò tutta la sua fortuna a fare questo, non a fare il pittore, che allora ancora non gli era riconosciuto moltissimo. Senta, e allora diciamo Leonardo adesso in poi? Leonardo Finmeccanica Leonardo per quest'anno, dal primo gennaio solo Leonardo. Senta, lei è arrivato in una grande azienda, l'abbiamo detto, Finmeccanica, che era lo sbando però. Era lo sbando. Perché secondo lei? Prova ne erano i conti che erano drammaticamente perché malmessi. Era lo sbando? Ma la mia analisi è questa. Era l'ultima esempio delle vecchie partecipazioni statali lottizzate, al cui interno c'era una holding che aveva una sua funzione scarsa. Sì. Tante imprese controllate, ognuna perfettamente indipendente, con una specie di feudatario che stava sopra, e quindi non c'era la possibilità di far sinergia nelle risorse, soprattutto guardando il futuro. Adesso, per la ricerca adesso siete diventati one company, perché? Per questo, perché one company per questo, perché mettiamo in sinergia e integriamo tutte le risorse, soprattutto quelle umane, le migliori, per poter guardare il futuro con progetti unici, integrati di sviluppo. E il progetto di fondo qual è? Il progetto di fondo è far sì che Finmeccanica Leonardo Finmeccanica, diventi un'impresa che sia in grado di poter competere con le altre, e badate che la competizione è feroce, in un mondo molto difficile, in un mondo molto difficile dove l'innovazione, la cyber innovazione sarà la questione fondamentale e dove il problema della globalizzazione indurrà le imprese purtroppo a non essere più solamente nazionali ma avere una dimensione globale, altrimenti scompariranno. Senta, ma che cosa è stato più difficile recuperare del buono che c'era? Le resistenze, voglio dire, sono state tante. Le resistenze ovviamente sono state tante, è stata anche strascico sulla stampa, nel senso che c'erano gli effetti da tutte le parti. Da tutte le parti. Però devo dire che c'era consapevolezza che Finmeccanica non poteva più andare avanti così. Che era arrivata tutti alla fine corsa. Sapevano che stavano sull'orlo del baratro. E quindi questa forza di rendere viva l'impresa ha prevalso e tutti, devo dire, mi hanno dato poi una robusta Senta, mano. Nel primo trimestre del 2016 Leonardo ha conseguito un utile netto 14 volte superiore a quello del 2015, eppure gli ordini sono in calo del 3% rispetto al 2015, e quindi lei ha ottenuto questo risultato riorganizzando e tagliando i costi? Anche tagliando costi ovviamente, e dobbiamo ancora aumentare fortemente la produttività per stare al passo, ma soprattutto questione che non deve indurre mai in errore, anche rifiutando ordini sbagliati, perché di ordini si può morire. Noi eravamo pieni di ordini in perdita. Quando gli ordini sono in perdita vuol dire che non servono. È meglio non farlo. Conquistare prenderli. Ordini in perdita sani? È facilissimo. Non c'è dubbio. Prendere ordini sani è difficilissimo e l'equilibrio si sposta sul problema di questo garantisce il futuro. Senta, il primo fa la bara. Senta, il primo fa la bara, certo. Senta, ingegner Moretti, lei dice che nella vita per arrivare bisogna fare fatica e non cercare cercare scorciatoie che poi alla fine intanto non ripagano. Lei ha sempre fatto solo fatica? Io ho fatto solo fatica da quando ho iniziato a lavorare a padrone a 11 anni lo strumento che utilizzavo era a quel tempo la zappa. Va bene, dalla zappa ai puntamenti militari. Beh, insomma, sono un esempio di ascensore sociale. Ero di una famiglia poverissima, ora sicuramente non sono povero. Senta, ingegner Moretti, nella sua ascesa professionale però la sua militanza o simpatia politica, che era nota e forte, l'ha aiutata? Mi ha aiutata non dal punto di vista della carriera, mi ha aiutato dal punto di vista della conoscenza. Ma è vero che lei ha fatto il sindacalista alle ferrovie perché glielo ha chiesto Luciano Lama, che all'epoca era il segretario generale? Semplificando è così, ma il motivo era perché io stavo lasciando le ferrovie, era più o meno metà degli anni Ottanta, lavoravo a Bologna e dirigevo una officina. Sì. E era però arrivato ligato a capo delle ferrovie e quindi avevo detto semplicemente, avevo comunicato al Consiglio di Fabbrica che stavo andando via e questi mi fecero rincontrare. Quell'esperienza mi ha insegnato tantissimo. Ecco, ma c'è stato un capo delle ferrovie che lei ha incontrato che ricorda con particolare soddisfazione, piacere, insomma, col quale ha lavorato bene? Ho lavorato capo delle ferrovie, nella mia parte non l'ho incontrato quando era ancora in carica. C'era un ingegner Maier che fu il vero ultimo grande direttore delle ferrovie prima della fase di lottizzazione, che naturalmente era stato veramente un grande riferimento. Lo conobbi e fui impressionato positivamente. Il secondo che ho incontrato e che fu una svolta importantissima, anche se allora faceva ancora il sindacalista, fu Schimberni. Mario Schimberni, mandato da Di Mita, come mi disse, per dare un colpo di barra e poi andarsene. Lui andò via e io tornai a fare il mio lavoro nelle ferrovie. Senta, il sindacato oggi però fa un'enorme fatica a capire il proprio ruolo. Perché? È rimasto al Novecento? No, il sindacato si è un po' burocratizzato non riesce a capire quali sono i cambiamenti reali, che sono velocissimi peraltro, che il mondo dell'economia e della produzione sta avendo. Ma che cosa le ha insegnato il sindacato che oggi le serve in Leonardo Finmeccanica? Capire quelli che sono gli interessi veri della gente e come i lavoratori ragionano. D'altra parte io stesso ero stato, come dicevo, sotto padrone da piccolo e quindi proletario, così, e avevo già questa nella mia cultura. Questo mi ha aiutato però a capire come organizzare quegli interessi, e l'accordo che facemmo allora da sindacalisti fu un accordo storico, perché con Schimberni firmai 50.000 persone in meno. Allora non fu capito da nessuno, se fosse stato capito c'era Trentino a quel tempo, la strada sarebbe stata diversa. Senta, dal quasi monopolio di ferrovie al mercato super competitivo come quello di Leonardo Finmeccanica, il cambio più difficile di mentalità da fare qual è stato per lei? Ma devo dire, non ho fatto fatica. Servono qualità diverse perché questo è un lavoro tutto proiettato sull'internazionale, in un mercato difficilissimo. L'adattamento, naturalmente, c'è stato. Devo dire però che, badate, senza sottovalutare, le ferrovie sono uno dei mestieri più difficili al mondo. Allenano molto a questi cambi. Senta, ingegner Moretti, adesso è arrivata la Brexit. Lei se l'aspettava? Sì. È stato? Sì? Sì. Ah, perché? Perché conosco gli inglesi in particolare. Ma è stata un'ammazzata per voi però, no? È una mazzata dagli indici di borsa che secondo me non colgono quella che sarà la realtà diversa. In verità noi non avremo effetti particolarmente importanti nel breve né nel medio, però, e avremo forse qualche opportunità per poter discutere in maniera diversa con il governo UK, mettendolo, non dico con le spalle al muro, ma naturalmente in qualche modo trattando in un altro modo. Però nel segmento elicotteri, difesa, i vostri affari in Gran Bretagna erano ottimi, con ricavi molto buoni e anche ottimi margini. Adesso cosa cambia? Noi manteniamo ottimi lavori laddove la nostra supremazia tecnologica è evidente, come tutta la parte dell'elettronica che abbiamo anche in UK. Abbiamo, se mai, ma avevamo già alcune difficoltà sulla parte elicotteristica, che la stampa soprattutto locale riconosce, e questo ci permetterà di poter discutere in maniera più diretta e franca con il governo. Ma con la Gran Bretagna fuori dall'Europa saltano i progetti di difesa comune, secondo lei? Dunque, ci sono due livelli, NATO e Unione Europea. Credo che dal primo punto di vista non cambi granché. Dal secondo punto di vista, e aiuta anche il primo, si potrà rivedere completamente il sistema della difesa europea, che vedeva negli UK un vero ostacolo, approfittando anche di un'altra occasione storica, che Germania, dopo 70 anni, sono finite le sanzioni del dopoguerra. Cioè, quindi questo significa che adesso la Germania potrà produrre nel Germania settore militare. Germania può produrre, ma non solo, può esprimere senza alcun vincolo anche nella difesa un ruolo. E naturalmente, essendo Germania nuovamente leader nei vari settori economici, cercherà di svolgerlo anche in quello della difesa. Ecco, lei giorni fa al Financial Times ha detto: siamo pronti a fare acquisizioni e abbiamo voglia di crescere negli elicotteri, nell'elettronica di difesa. Hai in mente operazioni precise? Ho in mente operazioni precise che non posso dire, sono sotto discussione. Posso dire che sono concentrati in Europa in vista proprio del consolidamento della difesa europea, per far sì che noi possiamo diventare uno dei players assolutamente più importanti. Ma mi dica una cosa precisa, ingegner Moretti: secondo lei c'è troppa ansia e confusione intorno alla Brexit? C'è troppa ansia e confusione perché è stata caricata di tante vicende emozionali. Vorrei farvi considerare che, se guardate come stanno andando i titoli UK, stanno andando bene, certo. Il che vuol dire che gli investitori internazionali non stanno sottraendo investimenti. Poi il fatto che la sterlina diminuisca il valore può essere anche un fatto positivo. Se avessimo noi una moneta italiana di minor valore, ci servirebbe molto. Le aree core di Leonardo, cioè le aree più importanti, sono l'aerospazio, difesa e sicurezza, è così? Sì. Ecco, ma qual è la più importante secondo lei? Ce n'è una più importante o no? Ma la parte più importante secondo me è la parte elettronica in senso lato, non è solamente difesa in questo caso, perché lì abbiamo anche per la produzione civile delle possibilità future enormi. Penso ad esempio a tutta la parte dei sensori, cioè? La sensoristica, noi siamo leader al mondo nel campo della sensoristica, della radaristica, di tutti questi elementi qua, e nel mondo 4.0 di Internet delle cose, i sistemi che possono servire a qualsiasi tipo di controllo, noi possiamo avere uno spazio di grandissimi grande spazio. Ecco, il 15 è quello più valore aggiunto di settore, qual è? È questo con quello dell'elicotteristica. Abbiamo dei settori che sono a scarsissimo valore aggiunto, addirittura negativo, anche se abbiamo recuperato moltissimo, che sono la parte più povera, le aerostrutture, la costruzione di carpenterie aeronautiche. Certo. Senta, il 5 aprile in Kuwait voi avete preso una commessa di 8 miliardi per 28 Eurofighter. No? Ecco. Che effetti avranno sul vostro bilancio questa acquisizione? La dimensione economica finanziaria l'ha già detta. Avremo quindi la possibilità di avere tranquillità per molti anni nel settore aeronautico in senso stretto. Senta, ingegner Moretti, subito dopo il rientro dei Marò, il governo di Nuova Delhi ha cancellato le commesse che aveva in corso con voi. Come sono le cose esattamente? È andata così? Non c'è una relazione diretta tra il problema Marò e la cosa. Però temporalmente è capitato. Il problema è diverso, legato al fatto che in India si sta facendo una grande battaglia politica tra i due partiti. E siccome uno, quello di Modi, attribuisce all'altro, quello della Gandhi, lo scandalo degli elicotteri, avendo, secondo loro, intascato soldi, lo stanno utilizzando come delle mazze, soprattutto, e diventerà in questo mese di nuova apertura della discussione parlamentare un altro ritorno su questa cosa. Ma la cancellazione dei 300 milioni della commessa per i siluri? Sono collegati a questo fatto. Insomma, la questione indiana quanto vale per voi, sostanzialmente? Al momento vale quei siluri, non ha grandissima vale altra cosa. Lei ha invitato Marchione a non guardare solo a Google come partner per il progetto delle auto senza pilota, perché siete anche voi, producete auto senza pilota? Non produciamo auto senza pilota, produciamo droni, non sono auto, ma sono degli senza aerei, pilota, eccetera. I sistemi di comando e controllo sono quelli, forse molto più sofisticati, e questo si lega anche al discorso dello spazio che sta intervenendo, comunicazioni faremo. E quindi, diciamo, si può guidare un'automobile come un drone? Quello è il futuro? In prospettiva tutto sarà guidato senza piloti, sia nell'acqua che sulla terra che sull'aria, perché i piloti sbagliano. Normalmente i sistemi di controllo hanno delle affidabilità maggiori. Senta, lei ha parlato di un piano di investimento di 900 milioni in 5 anni e 200 assunzioni di ingegneri a Torino, ma per fare cosa? È legato al discorso di Eurofighter, Eurofighter in particolare, e a quelli che saranno le produzioni future dei trainers, i cosiddetti aerei di addestramento, di cui noi siamo primi al mondo. Senta, lei è entrato nell'advisory board di Confindustria dopo averla criticata molto. Che cosa è cambiato? Ma è cambiata, c'è una nuova stagione, mi pare, sì, che sia un certo. Presidente che nuovo abbia presidente. Presentato un buon programma, ha pronunciato per la prima volta una cosa che secondo me è magica, cioè? Le imprese, come ogni essere vivente, nascono piccole ma devono diventare grandi, altrimenti non servono. Cioè piccolo e non è bello se non è in una filiera. Soprattutto nel mondo globale. Su questa base io credo si debba ricostruire quella che è il nuovo corso di quindi può essere l'uomo nel giusto? Quale occorre pensare alle piccole e medie imprese, ci mancherebbe. Dentro una filiera. Ma si deve anche pensare alle grandi, perché altrimenti scompaiamo come paese. Senta, ma è l'uomo giusto al posto giusto, allora sembra? Dai primi passi sembra di sì. Ma quindi Leonardo resta in Confindustria o se ne va? Siamo in Confindustria. No, perché tu si era parlato. Tu hai accettato di stare in advisory board. Va bene, ok. Senta, intanto... Poi le cose possono essere riviste. Certo. No? Ah, vabbè. Tanto partiamo di qui. A San Pietroburgo, dove l'Italia era ospite d'onore, Leonardo Finmeccanica ha firmato una commessa per 20 elicotteri Augusta per un valore di quanto? Sono 300 milioni che si aggiungono ad altri 10 che avevamo già acquisito. Quindi una commessa a 450 milioni dentro un potenziale ordine di 2 miliardi e mezzo. Sono elicotteri per oil and gas. Cioè? Per petrolio. E quindi rappresenta in questo particolare momento di crisi elicotteristica dovuto all'oil and gas un importante e enorme oil passo and avanti gas, oil rispetto, and gas, rispetto cioè, ai nostri competitors. Senta, il rapporto con la Russia si sta sviluppando in molte direzioni. Lei dice 2 miliardi e mezzo di scenario, ma potenziali o come dire che hanno delle concretezze? Sono potenziali con una concretezza di 450, quindi è una cosa che inizia a essere concreta. Dal piccolo al grande, va bene. Senta, hanno ancora senso le sanzioni commerciali contro la Russia o no? Ma credo che le cose si stanno gradualmente rivedendo, anche perché... è vero che esiste il problema ucraino che nessuno sa più risolvere, nel senso che non sa risolverlo nessuno, ma esistono anche tante altre cose che la Russia sta facendo, come quella della Siria. Credo che nel mondo normale, cioè, le combattono potenze il terrorismo devono forse di più essere di altri. Molto più coese a combattere il terrorismo. Senta, San Pietroburgo Putin ha detto: l'Italia è fortunata ad avere un leader come Renzi. Lo pensa anche lei? Ma Renzi è una giovane espressione politica italiana che non ha in questo momento, ad esempio, uguali in altri paesi. Ma cosa da le piace punto di più vista, di Renzi? Ma io l'ho conosciuto quando era addirittura presidente della provincia. Naturalmente ha gli elementi della gioventù che devono essere in qualche modo addolciti, certo. Ma mi piace il fatto che ha il gusto della scommessa e l'intelligenza. Soprattutto poi fatica molto, perché uno che si alza la mattina alle 6 e lavora fino alla sera alle 2, se capisco bene. Senta, di meno cosa le piace? Qualcosa che non le piace? Beh, deve addolcire naturalmente i tratti della gioventù, questo è un merito. Soprattutto per noi, insomma, che siamo più vecchi. Ma quanto contano i leader politici nelle trattative sui grandi apparti internazionali nei vostri settori, che sono settori delicati di eccellenza? Contano tanto, naturalmente conta anche la cultura del paese, che deve essere in qualche modo vicina. Molto spesso l'Italia non ha una cultura. No, glielo chiedo perché per la commessa che avete vinto in Qatar contro la Francia per fornire sistemi di componentistica di ultima generazione, l'Italia è passata sotto silenzio. In Francia è esplosa una questione politica. Come si spiega questa differenza? È un problema di cultura di paese. Francia e Stati Uniti considerano l'aerospazio difeso la punta diamante dell'industria. Noi ci vergogniamo di averla, altri farebbero carte false per avere quello che abbiamo noi. Ecco, senta, ma ma in un contesto così, diciamo, si fa fatica, si può immaginare una difesa comune, no? In questo tipo di concorrenza così forte, credo, per esempio, con la Francia? Credo appunto. Di sì, anche perché se l'Europa non si dà una difesa comune, i progetti di sviluppo sono troppo costosi per poter reggere la concorrenza, da un lato degli Stati Uniti, dall'altro della Cina. Non avremo risorse sufficienti per fare progetti quindi importanti. È necessario. Tra i vostri azionisti, però, c'è la Fondazione Banca Etica, che nell'ultima assemblea ha criticato il vostro progressivo sbilanciamento verso la produzione militare. Lei cosa ha risposto? Ha criticato la vendita dell'Ansaldo Breda, che non poteva più tenere perché non aveva conoscenza e non aveva piattaforme. Itachi ha dimostrato di poter mantenere in Italia un lavoro, adesso ha vinto anche un'importante gara. Ma è vero? Non siamo sbilanciati, nel senso che noi abbiamo 50% di lavori che vengono sulla difesa e 50% sul civile. E stiamo orientando. Ma chi rende di più, la civile o la difesa? Sono bilanciati. Bilanciati, sono cioè? Bilanciati. Uno perde, uno vince. No, sono più o meno bilanciati. Il nostro sforzo è quello di fare investimenti di ricerca e sviluppo per il cosiddetto dual role. Dual role vuol dire stessi investimenti che possono essere utilizzati sia per la difesa che per il cibo. Ma chi fabbrica armi non è in qualche modo responsabile del loro uso? Diceva Machiavelli che chi non le fabbrica le compra. Non so se conviene all'Italia comprarle piuttosto che dove. Se le produciamo abbiamo anche la conoscenza tecnologica. Voi quanto spendete in ricerca? Stati Uniti dicono che il loro più importante obiettivo è mantenere la superiorità tecnologica della difesa. Ecco, ma perché questo è il punto. Ecco, ma volevo sapere, è ancora la difesa il driver vero della ricerca? Vedendo l'esperienza degli Stati Uniti sembra proprio di sì. Lo dimostra. È il motore dello sviluppo tecnologico, insomma, sostanzialmente. La parte civile oggi con la cyber rivoluzione dà un contributo, ma è evidente che laddove occorre investimento a fondo perduto e lo Stato deve intervenire, come la difesa, ma ecco, è il motore reale. Parlando di difesa, il libro bianco della difesa, nel libro bianco della difesa, lei vede le scelte chiare di investimenti strategici di cui avreste bisogno? Sì, ce ne sono tutte le premesse, perché c'è una chiara defocalizzazione dello spazio italiano, mediterraneo, una chiara determinazione di quelli che sono gli elementi di ricerca e sviluppo industriale, e quindi ci sono le premesse per fare un ottimo lavoro. Ma perché voi volete andare di nuovo su Marte, insomma lo spazio, è un vostro obiettivo? Lo spazio è un obiettivo di tutto il mondo. La rivoluzione più importante che si farà in questi giorni sarà quella delle comunicazioni satellitari e quella del controllo delle navigazioni satellitari. E voi lì come siete? Quando si dice navigazioni vuol dire droni, terra, di aria, tutto, e di cose, controllo di tutto, che ora non possono essere utilizzati perché non c'è una copertura. Quando vi sarà una copertura, tutto girerà. E quindi farete satelliti? Noi stiamo con la Space Alliance, con Thales, facendo satelliti, stiamo facendo anche servizi con Telespazio e stiamo guardando anche ai lanciatori di Avio. Anche i lanciatori di Avio. Senta, è Marte? Ho letto di Marte. Stiamo lavorando con i programmi ESA e Agenzia Russa. E stiamo facendo tutta un'operazione soprattutto delle parti più importanti di perforazione del suolo, di captazione di campioni, di elaborazione eccetera e trasmissione dei dati sulla Terra. Ma perché è stato dimenticato per un certo periodo? Siamo andati sulla Luna, poi è finito tutto. Perché allora era vista come competizione politica tra le due superpotenze. Poi finita questa, c'è stato uno spazio non vuoto, perché nel frattempo si è lavorato tanto, ma non più visto come parte di difesa. Allora c'era proprio di mezzo la politica e la difesa tra Stati Uniti e Russia e Unione Sovietica. Oggi invece sono riportate a quelli che sono le essenze reali: riuscire a trovare nello spazio le condizioni per testare e oggi anche per poter lavorare in maniera più rapida e più veloce. La trasmissione di dati a satellitare sarà una novità, perché se dobbiamo andare nel trattare big data come quelli che abbiamo, enormi e sempre in sviluppo, non riusciremo con operazioni terrestri a trasmetterli e a trattarli. Senta, ingegner Moretti, ho letto che lei voleva fare il filosofo, poi ha fatto l'ingegnere. Cosa l'ha convinto? Beh, ero povero, l'ingegnere mi dava da mangiare, il filosofo forse meno. Non si mangia. Senta, ma c'è qualcosa della filosofia che oggi le manca, che le piacerebbe aver approfondito? Ma io l'ho approfondita naturalmente, per personalmente. Suo. Della filosofia, ripeto, l'ho già in qualche modo detto. Cercare di essere essenziali, con pochi bagagli personali, con poche pretese, in modo che se si cade si possa fare anche con poco. Senta, le faccio un'ultimissima domanda. Al referendum di ottobre voterà sì o no? Voto sì, perché abbiamo il più incredibile sistema farraginoso di produrre leggi. Noi siamo la terra degli azzeccacarbugli, perché una normale persona come me e lei non riescono a interpretare la produzione legislativa italiana. Assolutamente. Non succede in nessun altro paese. E quindi, e ogni volta che c'è uno scambio tra la Camera e il Senato si aggiungono tantissime cose incomprensibili, cambia tutto e l'Italia come una lumaca deve competere con le grandi jet. È un sì per la semplificazione. Per la semplificazione. Grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 66 66, l'SMS pubblicità.